Oh, quest'anno in vacanza, con la panda. Dai, bolla, guidi te. Dai. Ma dove cacchio dobbiamo andare? Non ci abbiamo una lira qua. Abbiamo la fame negli occhi, ci abbiamo. Ma porca vacca, ma come cacchio si fa? Ma tu dimmi come cacchio si fa ad andare avanti così. Tu devi dirmi come cacchio si fa. No, Fra. Tu devi dirmi come cazzo si fa. Voglio andare al mare, ma non lo posso fare. Ma tu l'hai visto oggi come li amo. Pagherò le tasse e sto a Milano con te. Ma tu l'hai visto oggi come li diamo. Voglio andare al mare, ma non lo posso fare. Ma tu l'hai visto oggi come li diamo. Io però giù sotto e mo te lo racconto. Prendere il sole nudo a largo su una barca, con una birra fresca sulla spiaggia ed una toppa nuda tra le braccia. Avere anche alla fine il mio posto al sole, con due labbra rosse tra le quali morire. E con lei infradito andare in pizzeria, stare tranquilli quando c'è la polizia. E non fare cose che fa male alla salute, darsi dagli scogli con il paracadute. Ho bisogno di scappare, Milano è un inferno. C'è la pula che mi blocca come il ghiaccio d'inverno. Le bollette sopra il frigo che mi danno l'ansia. Un deca nella tasca e non ci va in vacanza. Ad agosto faccio il bagno dentro l'acqua del Ticino, mentre quei bastardi sono in giro a Portofino. Voglio andare al mare, ma non lo posso fare. Ma tu l'hai visto oggi come li amo. Pagherò le tasse e sto a Milano con te. Ma tu l'hai visto oggi come li diamo. Voglio andare al mare, ma non lo posso fare. Ma tu l'hai visto oggi come li diamo. Passerò l'estate a Lido Scalo con te. Al largo ci vorrebbe un gommone per portarmi lontano da te. Ci vorrebbe un gommone per portarmi a Riccione. Ma come a Riccione, dai? Ci vorrebbe un gommone per portarmi lontano da te. Voglio andare al mare, ma non lo posso fare. Ma tu l'hai visto oggi come li amo. Pagherò le tasse e sto a Milano con te. Ma tu l'hai visto oggi. Voglio andare al mare, ma c'è il marzo di bollette, non lo posso fare. Se alzo due lirette, due euro, magari soldi veri, molti e pronti, non mi vedi. Prendo il pandino presidenziale, quartierino, e svoltiamo con il mare, spacchiusino. Ecco, un qualche maccheggio, l'aspetto, campeggio, partenza, atterraggio, lasciamo Milano. Ehi, ma tu l'hai visto oggi come viviamo? Oh, Fra. Ma toglietelo il giubbino però. No, non proprio niente. Togliti anche gli anfibi, no? Ma lasciami perdere, dai. Oh, bolla. Ma birra? È finita, Fra. No, porca troia, no.